Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Praticità, sicurezza, tracciabilità sono alcuni dei vantaggi che riscontriamo utilizzando un bancomat o una carta di credito, vantaggi che vengono spesso sottolineati in un paese come l'Italia, i cui abitanti sono ancora molto affezionati al contante. Però se una persona utilizza una carta, magari non si porta dietro troppi soldi, appunto, in contanti, e magari riesce anche a controllare di più quanto spende. Però a volte anche la moneta elettronica di pagamento può darci dei grattacapi. Ad esempio, allo sportello automatico possono verificarsi disguidi imprevisti dovuti a volte anche alla nostra distrazione, in altri casi anche al malfunzionamento dell'impianto della macchina, banconote che non vengono erogate, carte che vengono bloccate chissà perché, o carte che semplicemente si dimentica di ritirare e la macchina se le risucchia. Senza dimenticare i furti, le clonazioni, gli smarrimenti, le dimenticanze dei codici necessari al funzionamento di questi strumenti. Allora, non vogliamo spaventare nessuno, da questi microfoni spesso abbiamo fatto, anzi, opera contraria, opera di sensibilizzazione all'utilizzo della cosiddetta moneta elettronica, e vogliamo proprio per questo tranquillizzare i nostri ascoltatori spiegando loro quali sono le soluzioni e le procedure più efficaci da seguire per risolvere queste situazioni antipatiche, a volte anche un po' rischiose, anche se c'è da dire che sono sicuramente molto rare. Noi però quello che volevo precisare da subito è che abbiamo voluto organizzare questa trasmissione non perché ci siano dei dati particolarmente significativi da commentare, ma perché ci ha scritto un'ascoltatrice che è incappata in una disavventura, e adesso, siccome abbiamo così un po' adottato anche questa strada, quella di prendere a spunto casi pratici dei nostri ascoltatori per costruire intorno a loro delle intere puntate, allora questa mattina abbiamo utilizzato appunto questa procedura. Vi racconteremo il caso di un'ascoltatrice di Treviso che si chiama Arianna, che ci ha scritto qualche settimana fa, ci racconterà tutto quello che le è successo e dal suo caso appunto cercheremo di rendere un po' più complessivo l'argomento e naturalmente rispondere anche ai vostri casi, quelli che ci vorrete segnalare all'800240024, oppure se volete ci potete scrivere al 349-238-6666 al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Su Facebook siamo su salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Allora, avete mai avuto disguidi allo sportello bancomat o comunque utilizzando una carta di pagamento? Come l'avete risolto questo problema? Raccontatecelo e commenteremo tutto questo con Rita Camporeale, responsabile ufficio sistemi e servizi di pagamento dell'ABI, Associazione delle Banche Italiane. Più tardi ci collegheremo con Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum. Detto questo, adesso invece andiamo un po' a vedere quello che succede oggi in borsa. La giornata si muove intorno alle iniziative delle banche centrali. Questa mattina abbiamo avuto una giornata che era partita male per la borsa di Tokyo, poi è arrivata l'iniziativa comunicata dalla Banca Centrale del Giappone e Tokyo ha chiuso con un rialzo del 2,20%. Da parte della Bank of Japan un'accelerazione, un ampliamento delle misure di politica monetaria espansiva per rivitalizzare l'economia del paese, già stra-espansiva la politica monetaria della Bank of Japan, e si continua su questa strada con l'obiettivo di portare l'inflazione a raggiungere stabilmente il target del 2% annua, e quindi una nuova fase di espansione monetaria qualitativa e quantitativa che ha incoraggiato gli acquisti su Tokyo, che già viaggia sui massimi da qualche anno a questa parte, ha archiviato completamente anche tutta la tragedia di Fukushima o Fukushima, mettete l'accento dove volete, e questo ha portato anche molti acquisti stamattina sulla borsa europea, che si riprende dopo il nuovo calo registrato ieri. Soprattutto Milano, oggi la miglior piazza d'Europa, ha un rialzo di quasi 1,5%. Perché tutto questo? Perché c'è l'auspicio che anche Mario Draghi, oggi che riunisce il direttivo della Banca Centrale Europea, possa replicare le iniziative giapponesi, visto che qua l'economia soffre parecchio, anche nell'Eurozona, soprattutto per alcuni paesi. Ci si aspettano nuove iniziative di stimolo monetario, non so se si agirà sui tassi o se si procederà attraverso altre iniziative di stimolo, ma sul mercato serpeggia anche questa indiscrezione, quindi siamo proprio curiosi di sapere intanto alle 13:45 cosa si deciderà sui sui tassi di interesse e poi alle 14.30, consueta conferenza stampa di Mario Draghi. Migliori titoli di Piazza Affari: Mediobanca più 6%, Popolare di Milano più 4,81%, A2A più 3,81%, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,55%, UbiBanca più 3,17%, Banco Popolare più 3%. In calo invece Luxottica e Monte dei Paschi, che perdono oltre un punto, meno 0,9% per STM. Monte dei Paschi continua a soffrire, proprio un'altra settimana molto difficile per la società. Andava bene anche il gruppo Generali, che ha collocato presso un gruppo di investitori istituzionali il 12% della controllata Banca Generali. Direi che per la borsa è tutto. Andiamo subito al tema di oggi. Affrontiamo quella che potrebbe essere la rosa possibile di imprevisti che ci possono capitare al Bancomat, e abbiamo organizzato questa puntata dopo aver ricevuto questa lettera di questa nostra ascoltatrice. 3 gennaio. Mi trovo in centro a Treviso e ho necessità di fare urgentemente un prelievo Bancomat. In genere usufruisco solo degli sportelli della banca in cui ho il conto corrente, ma data l'emergenza accedo al Bancomat di un altro istituto. La mia richiesta è di 160 euro. Sfortunatamente la macchina me ne dà solo 110. Mi accorgo subito della cosa. Entro in banca con in mano le banconote, la ricevuta, la mia tessera Bancomat e la richiesta di riavere il pezzo mancante. Un gentile impiegato mi invita a mettere via tutto, dicendo che lui non può contarmi i soldi. Tuttavia mi invita a fermarmi per compilare l'apposito modulo in cui segnalo il disguido e mi rassicura dicendo che la settimana successiva il Bancomat sarebbe stato aperto, i miei soldi si sarebbero trovati e sarebbero stati accreditati nel mio conto corrente. Il 9 gennaio lo stesso gentile impiegato mi telefona dicendomi che, caso strano, all'apertura del Bancomat i soldi non c'erano. Tuttavia, la settimana successiva sarebbe giunto un tecnico che avrebbe fatto un'ispezione mirata alla macchina, dato che sicuramente i soldi si sarebbero trovati incastrati in qualche meandro. Capita a volte, mi dice. 21 gennaio, tutto tace. Decido di scrivere una raccomandata al direttore di quella filiale di banca. Il 4 febbraio ricevo una lettera dalla sede centrale in cui mi si dice che sono stati fatti tutti i controlli. I miei soldi non risultano, perciò loro non me li possono rendere e non sanno cos'altro dirmi se non di rivolgermi alla banca in cui ho il conto corrente. Morale: tu, essere umano, non nostro correntista, menti. La macchina nei suoi report dice il vero. E oggi però è il 4 aprile, chissà come è andata a finire per Arianna, che salutiamo in collegamento da Treviso. Arianna, buongiorno e benvenuta a Salvadanaio. Buongiorno a voi. Grazie anche per la sua testimonianza, che ci ha permesso così di inventarci anche una trasmissione su questo argomento. Chissà in quanti incappano in situazioni di questo tipo. Com'è finita la sua storia? Speriamo, no, devo dire che sono pochi. Il suo è un caso abbastanza straordinario, però è capitato, perché dire, l'eccezione conferma la regola, com'è andata a finire la sua storia? Allora, la mia storia è andata a finire, finita il 4 marzo, quindi un mese successivo all'accaduto, ed è finita. Allora, io mi sono recata alla mia banca, il personale della mia banca mi ha guardato stupefatto dicendo: assolutamente noi non siamo competenti in materia, in quanto lo sportello da cui tu non hai avuto i soldi non appartiene al nostro circuito, non sappiamo come aiutarti, non possiamo rifonderti la cifra, devi rivolgerti all'arbitrato bancario. A quel punto io mi sono inalberata, nel senso che ho detto: no, allora io a questo punto chiudo il conto corrente, perché mi sentivo trattare come una specie di pazza. Mi trovavo di fronte a due istituti bancari che si rimbalzavano per 50 euro, io i soldi non li avevo avuti. Oltretutto ci avevo pagato le spese di commissione. Sì, perché era uno sportello diverso dalla sua banca. Esatto, esatto. Li avevo poi impiegati per raccomandate, telefonate, benzina per andare da uno sportello all'altro. Sì, ormai si erano vaporizzati questi 50 euro. Esatto, esatto. Io sembravo una specie di pazza che girava di banca in banca alla ricerca di questi 50 euro. Allora ho parlato con il direttore e gli ho detto: senta, io a questo punto chiudo il conto corrente. corrente, perché visto che i soldi comunque voi non mi potete aiutare, la banca, il mio conto corrente serve per far transitare uno stipendio, non sono tutto sommato una correntista che effettua mille operazioni, a questo punto lo chiudo, tanto vale, come dicono i nonni, che io me li tenga sotto il materasso. Perché se, come dire, se questa è la cura che vi prendete del vostro cliente, esatto, perché devo rimanere con esatto, voi? Esatto, perché l'altra banca mi ha risposto che per loro l'operazione da lei segnalata risulta regolarmente effettuata senza anomalie e conclusa con l'erogazione delle banconote, così mi è stato scritto dalla banca precedente. Sì, perché lei nella ricevuta che rilascia lo sportello ATM aveva i 160 euro che diceva, però in realtà non ce l'aveva in mano. Però io non li avevo. Allora a quel punto il direttore, forse impietosito, forse anche impaurito, perché il giorno d'oggi a tutti scoccia perdere comunque un correntista, mi ha detto ma no, allora lasciami pensare, e alla fine ha trovato una soluzione su cui io non ho indagato, però io ho riavuto riaccreditati i miei 50 euro. Tutto sommato per pietà, in ogni caso. Sì, poi gliel'hanno fatta cascare un po' dall'alto, come si dice. Esatto, un po' mi è stata fatta cascare dall'alto questa soluzione. E la cosa è stata veramente sgradevole, se non altro, al di là dell'importo, perché insomma 50 euro possono comunque fare la differenza in una giornata. Ma proprio per il trattamento, perché io mi sono trovata di fronte ad un muro di gomma dove l'unica verità era quella di quella ricevuta. Certo, veniva messa in dubbio la sua versione dei fatti, giustamente. Diciamo che è anche comprensibile, però lei si è mossa subito, non è che è tornata tre giorni dopo a dire no, lei immediatamente, non appena non aveva in mano appunto il denaro che aveva richiesto, è entrata immediatamente in banca. Esatto, proprio nell'immediato, addirittura con in mano ancora la tessera bancomat, le banconote tutte aperte, perché non mi era mai successo. Quindi in modo molto ingenuo io pensavo che fosse possibile compensare subito la differenza, invece poi ho scoperto che c'era questo meccanismo. Certo, ma ammettendo poi anche di dover aspettare tutta la giornata affinché appunto si facesse il controllo fra quelle che inizialmente la banca sostiene di mettere dentro, ovviamente perché c'è un plafond credo quotidiano che la banca inserisca nello sportello ATM, e poi la differenza con quello che rimaneva la sera, insomma lei dice magari questi 50 euro dovevano saltar fuori. Esatto, assolutamente volatilizzati. Allora io tra l'altro mi chiedevo, ma così com'è può succedere, perché poi ho scoperto di non essere in realtà l'unica a cui succede che il bancomat eroga una cifra inferiore a quella richiesta, perché poi parlando come sempre si ritrova sempre in una casistica dove tutti dicono è successo anche a te, è successo anche a te, però nessuno mai ti dice che ne ha avuti 50 in più, perché quando succede io penso che una persona non lo dica. Esatto. Va bene. Ma di fatto che la ricevuta che il bancomat rilascia è sempre uguale all'importo che uno digita. Allora Arianna, comunque la sua vicenda, anche se un po' fatica, si è conclusa bene. Ha dovuto naturalmente negoziare un po' con il suo direttore, che io ritengo anche giustamente, dice, ma insomma è l'altro sportello, è l'altra banca che non gliela ha erogati, perché gliele devo dare io. Però lei intrattiene giustamente il rapporto con un istituto di credito. Io vado subito a Rita Camporeale dell'ABI per, non le chiedo ovviamente un commento su questo singolo caso, ma ecco che cosa avrebbe dovuto correttamente succedere, no, nel percorso di rivendicazione che l'utente ha fatto nei confronti intanto del primo sportello. Intanto buongiorno, perché non gliel'ho ancora dato, dottoressa Camporeale. Buongiorno, eccoci qua. Ascoltatori. Allora, doveva rifondere la prima banca o è corretto quello che è successo? È stato restituito questo importo direttamente dall'istituto di credito della nostra ascoltatrice? No, è corretto che sia stato l'istituto dove la correntista ha il conto, perché ha prelevato presso una banca che non è la sua, e allora chiaramente in questi casi, ora il caso che è stato presentato mi permetto di dire è veramente un po' eccezionale, mi rincresce insomma della disavventura. Di norma se accade una cosa del genere c'è un foglio di fondo che registra tutte le operazioni avvenute in corso di giornata, e la banca che ha l'ATM in gestione verifica tale foglio e può accorgersi delle anomalie. A quel punto comunica alla banca del correntista il disguido, e sarà questa poi che restituirà i fondi, come poi di fatto in fin dei conti è avvenuto, alla, al correntista stesso. Ecco, questo lei diceva è un caso abbastanza anomalo, devo dire che effettivamente è la prima volta che ci viene segnalata una situazione di questo tipo. Molto più frequente invece il caso in cui anche per nostra disattenzione lo sportello ATM trattiene appunto la tessera bancomat quando si fa il prelievo, perché magari non siamo veloci nel ritirarla, effettivamente il tempo disponibile è abbastanza ridotto perché magari ci distraiamo, perché c'è qualche cosa che succede attorno a noi o perché siamo lì anche impegnati a conteggiare le banconote per verificare che siano quelle giuste, quelle che abbiamo richiesto. In questo caso qual è immediatamente, dottoressa Camporeale, la procedura che va attivata, ammettendo che appunto la situazione si sia creata in totale buona fede, che per nostra disattenzione il bancomat abbia trattenuto la carta? Cosa bisogna fare? Sì, e dunque normalmente si hanno 30 secondi per effettuare infatti qualsiasi operazione, che possono essere anche pochi, però ecco, una buona norma è non distrarsi mai durante l'operazione di prelievo presso un ATM, perché ciò potrebbe da un lato danneggiarci perché la macchina trattiene la nostra carta, ma potrebbe anche non farci notare eventuali pericoli che sono intorno a noi. Quindi mai distrarsi quando si usa un ATM. Se l'ATM trattiene la nostra carta, sono giusti i passi che ha fatto l'ascoltatrice di prima, ovvero ci si reca prima presso la filiale dove è lo sportello ATM, segnalando l'accaduto. Normalmente però non è immediatamente che si può bloccare l'ATM e restituire la carta. Di nuovo, la regola prescrive che sia la banca che ha emesso la carta a restituircela, quindi la nostra banca. Quindi è probabile, se noi abbiamo fatto un prelievo in uno sportello diverso, in genere questa banca restituisce la carta alla prima banca, quella presso la quale noi abbiamo il rapporto, e da questa noi l'andiamo a riprendere. Esattamente. Quindi ecco, se vi succede questo, è la procedura standard, nessuno vi chiede niente di straordinario. Poi magari ci può essere, che ne so, allo sportello casualmente una persona che conosciamo, allora magari così il caso si risolve in tempi più brevi, ma solo in virtù di una relazione personale. La procedura è a garanzia del cliente, quindi deve essere sempre riconosciuta l'identità del cliente. Ed è per questo che poi, come lei stava dicendo, o perché conosco la persona che è nella filiale, o perché per una flessibilità della procedura mi chiede un documento d'identità e mi restituisce la carta, ciò può avvenire, ma la regola è che sia la mia banca restituire certo la carta. Allora, un altro motivo per cui ci si può un po' inceppare il meccanismo di prelievo del denaro quando ci serve, e in genere ci serve anche abbastanza rapidamente, è il motivo relativo alla nostra dimenticanza del PIN che dobbiamo digitare. Allora abbiamo, se non mi ricordo male, 3 volte a disposizione per digitare il PIN, la terza volta poi il bancomat credo si blocca. Adesso ci facciamo confermare tutto dalla dottoressa Camporeale, però c'è il caso su questo di Filippo da Napoli. Filippo, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Sì, buongiorno a voi. Sì, ci dica. Io vi racconto di un'odissea, chiamiamola così, però ci sono rimasto parecchio male, forse perché lavoro in un'azienda che si occupa di assistenza clienti e mi rendo conto che poi quando esci da lì c'è tutto un altro mondo. Bravo, infatti. Niente, il punto è questo: io tra 1000 PIN che digitiamo ogni giorno mi sono dimenticato il mio, ho 40 anni ma ormai la mente guardi, evidentemente a perdere qualche colpo. Niente, che cosa mi è capitato? A me una volta mi è successo alla cassa del supermercato, ho avuto proprio un buco mentale, non sapevo che cosa fare, guarda, avevo già inserito, cominciato, non mi ricordo, non sapevo andare avanti, quindi lì con quella commessa. L'eccesso di sicurezza poi ci porta, come esatto, dire, a dimenticarci certe situazioni. Comunque ad ogni modo mi ridanno faccio una fila per riavere la carta, premesso che avevo bene una bimba piccola con me, insomma, con tutti gli aggravanti che si può immaginare. Mi ridanno la carta facendo la prima fila, rifaccio una seconda fila per farmi riattivare la carta. In realtà alla seconda fila mi dicono: mi dispiace, ma lei deve tornare dove è al conto radicato. Al che dico io: chiedo scusa, ma io adesso vi chiamo da Napoli, ma poniamo mi fosse capitato, non che ne so, a Torino, oppure avessi radicato lì la cosa, mi trovo costretto a fare 800 chilometri e a prendermi dei giorni di ferie e quant'altro. Parlo col direttore, dico al direttore: guardi, io mi fa piacere se riesco a chiederle scusa, nel senso che mi mostra dove c'è scritto questa cosa, da cittadino che ammette lo sbaglio se ne va e finisce lì. Ma lei non crede a quello che le dico? Insomma, ne nasce una discussione assolutamente sterile che non mi porta da nessuna parte. Per non farvela troppo sì, perché lunga. Devo andare in pausa, come è finita Filippo? In altri due sportelli postali, perché parliamo del Banco Posta, tranquillamente mi hanno detto: ma guardi, ogni direttore è autorizzato a farsi sbloccare la carta cliente dopo aver verificato che la persona è interessata e tutto quanto. Insomma, quello che voglio dire è che la cosa brutta, si pensa che le nuove tecnologie facilitano le cose, purtroppo non c'è una voce unica ed è una cosa che a mio avviso è al di là dei tempi moderni, dei ritmi, insomma, lo so. Filippo, grazie per la sua testimonianza. Adesso la commenteremo con Rita Camporeale e poi fra un po' ci colleghiamo con Fabio Picciolini. Detto questo, appunto, il fatto di restituire la carta originaria allo sportello presso il quale appunto il conto è attivato è una procedura di sicurezza, ci raccontava prima appunto la nostra esperta, la nostra funzionaria dell'ABI, e quindi detto questo poi mi rendo conto che possa rappresentare un forte disappunto per molti che vorremmo immediatamente appunto la carta, però questo è. Salva Danaio. Scusi, ha dei problemi alle mani? No, tipo gravi impedimenti motori agli arti superiori? No, perché sono 25 minuti che digita inutilmente su quella tastiera, suppongo nel vano tentativo di prelevare denaro senza riuscirci. Ce la farà entro Natale? Sì. Glielo auguro io e tutta la fila. Grazie e buon lavoro. Una incommensurabile, perché io li adoro, gag delle più divertenti tra quelle che conosciamo di Aldo, Giovanni e Giacomo qua allo sportello Bancomat, e questo un po' per ricordare il tema e riprecisare il tema di cui ci occupiamo questa mattina. Tutti gli imprevisti che possono capitarci quando andiamo a fare un prelievo sono tanti. Questa mattina siamo partiti raccontando il caso di un'ascoltatrice che ci ha raccontato che ha fatto una richiesta per un certo importo, il Bancomat ha erogato 50 euro in meno e per farsi ridare questi 50 euro ha dovuto lottare un po'. Detto questo, poi ne abbiamo segnalati altri di casi, fra cui l'ultimo dell'ascoltatore che ci ha raccontato che lui, quando stava facendo il prelievo, non ricordava il PIN e naturalmente poi in automatico, al terzo errore credo, lo sportello ritira in automatico appunto la carta. Lì che cosa succede? Peraltro Rita Camporeale dell'ABI, il caso dell'ascoltatore che ci ha raccontato prima è successo con Bancoposta, quindi non credo che poi, forse, non so, magari i criteri sono gli stessi di restituzione e gestione dei problemi. Se capita ad uno sportello Bancomat, come viene gestita la questione? Sì, dunque, è corretto, come lei diceva, che dopo tre tentativi di digitare un PIN che non è corretto, la macchina blocca la carta, e ovviamente questo è una misura di prevenzione per evitare frodi. In questo caso, comunque, se io ho dimenticato il PIN, forse è meglio non arrivare a tre tentativi per evitare la cattura della carta, recarsi presso la propria filiale di banca e richiedere un nuovo PIN. Allora, Fabio Picciolini, presidente di Consumer Forum, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei si è perso la prima parte della trasmissione, però gliel'avevo già raccontato il tema che avremmo affrontato. Tante volte per gestire queste situazioni, quando non siamo soddisfatti di come viene gestito il problema con il direttore della nostra filiale o magari con il responsabile dello sportello dove ci capita l'inghippo, che può essere diverso dalla nostra banca d'origine, per un caso particolarmente importante anche dal punto di vista economico ci si può rivolgere cosiddetto arbitro bancario, no? Secondo lei in casi come questo conviene fare una scelta di questo tipo? Ma al consumatore conviene in ogni caso, particolarmente se è veramente convinto, perché per il caso che conosco così è, di avere ragione, perché il costo è estremamente basso, 20 euro, peraltro rimborsabili se vince il ricorso appunto all'arbitro bancario finanziario. I tempi sono certi e sono abbastanza brevi, per cui se c'è certezza di avere di aver fatto le cose giuste, come la signora che aveva credo 50-100 euro in meno 50, quando ha prelevato, sì, quindi sicuramente sì. Tenendo presente che peraltro che se la signora dimostra anche di aver sostenuto delle spese vive perché non sono raccomandata piuttosto che cos'altro, lo fa presente l'arbitro bancario finanziario e questo può essere preso in considerazione. Beh, però sa, spendere 20 euro per restituirsene, per farsene restituire 50 qualche se volta. Vince, se vince vengono restituiti comunque i 20 euro. Questo è un aspetto importante. Quindi viene restituita l'intera somma e eventualmente le spese accessorie, perché tante volte, come se ho capito bene questo caso di cui sta parlando, se poi è stato visto come una compiacenza da parte della banca, a quel punto lì, e la signora ha speso sicuramente per raccomandate o altro, secondo me è appunto opportuno invece fare un discorso formale, magari con qualche giorno in più. Certo, no, tenga conto che il caso è successo il 3 gennaio, la restituzione è avvenuta il 3 marzo, già 2 mesi di come dire, perdita di tempo solamente per andare tutte le volte a negoziare, magari danno il diritto ad un piccolo indennizzo, ad un piccolo risarcimento. Ancora un paio di casi per noi. Noi abbiamo quello di Salvatore da Como, volevo sentire, che pure qualcuno gli ha mangiato la tessera bancomat, un blackout se non sbaglio, Salvatore, giusto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, in pratica mi è successo in ferie quest'estate, a luglio, premetto, io abito in provincia di Como, in ferie in Puglia, quindi a 1000 chilometri di distanza, di venerdì sera vado per prelevare una certa somma. Certo che ha fatto bingo proprio, ecco, in ferie di venerdì sera, ecco, è 1000 chilometri da casa. Digito il codice, aspetto, schermata nera come se sta cambiando la schermata, e aspetto. E dopo qualche minuto in pratica mi guardo intorno e c'è stato un blackout. Allora la mia preoccupazione era quella lì, ho digitato anche il codice, la carta me la darà fuori, la tiene la banca, non sapevo più che cosa fare. E certo, una situazione del tutto anomala. A quel punto chiamo, vedo un numero sul bancomat, sullo sportello della banca, e chiamo e dico: guardi, ecco, premetto che la mia è una banca online, quindi stavo prelevando su uno sportello di un'altra banca, certo. Insomma. Per bloccare le carte, chiamare quel numero per le carte di quella banca, chiamo e mi rispondono no, guardi, non è un caso nostro, e mi mettono giù. A quel punto lì non sapevo che cosa fare realmente. Tramite telefonino mi riesco a collegare a internet, trovo il numero della mia banca, quindi di Bergamo, e chiamo. Mi rispondono gentilissimi e mi dicono: guardi, anzi, premetto una cosa, prima di mettermi giù mi dicono, scusi, chiamo la mia banca e mi dicono che loro non possono fare niente in quanto non sanno che cosa fare. Insomma. Come l'ha risolta, Salvatore? Andiamo subito alla conclusione. Tramite conoscenti così, insomma, il lunedì mattina mi sono presentato alle 7 prima che aprisse la banca per aspettare il direttore. Gliel'hanno restituita? Ma che, ho detto: guardi, le dico subito che mi hanno il bancomat per un blackout, mi ha mangiato la carta. Faccia quello che vuole, ho detto, io sono in ferie con 2 bambini a 1000 chilometri di distanza, ecco, mi hanno quindi prestato i soldi perché avevo degli amici per fortuna, ho detto mi serve il bancomat perché sono arrivato ieri e adesso vediamo che cosa si può fare. Ha detto: guardi che se vuole le faccio l'operazione davanti a lei, faccio quello che vuole per dimostrare che il PIN. E Salvatore, esatto, devo correre perché sennò finisco la trasmissione, sì, con lei. Gliel'hanno restituito, pratica, l'hanno rimandata a Bergamo la carta? No, ho dovuto fare richiesta alla mia banca, mi hanno mandato un fax, li hanno autorizzati a ridarmi la carta, però per un blackout io ho subito veramente dei disguidi notevoli. E vabbè, lì è stata la sfortuna anche che è capitato tutto di venerdì sera, adesso questo non lo possiamo imputare al sistema bancario che ha grandi problemi per tante cose, li colpevolizziamo per tutto, però questo è stato anche tutta una serie di un mix di fattori veramente, come dicevo prima, ha fatto bingo l'ascoltatore. Dottoressa Camporeale, che cosa vogliamo commentare adesso. Poi abbiamo sentito l'ascoltatrice iniziale a cui l'imprevisto, il disguido le è capitato tutto in città. Effettivamente, quando poi siamo in vacanza a migliaia di chilometri da casa, magari lì un po' l'elasticità anche dell'interlocutore è una prova importante anche di affidabilità del, come dire, intermediario finanziario, che dice. Sì, certo, tanto è vero che, come dicevo prima, è la nostra banca che ci deve ridare la carta nel caso che appena raccontato l'ascoltatore si sono adottate delle procedure abbastanza flessibili per rispettare le regole ma consentire comunque a lui di avere immediatamente la carta, perché chiaramente, ecco, a 1000 chilometri di distanza non sarebbe stato possibile o comunque troppo oneroso per lui rispetto formale. Nel solo caso che ci ha segnalato appunto l'ascoltatore, lui ha fatto bene, perché per prima ha chiamato la sua banca e poi in un secondo momento ha chiamato invece la banca presso la quale stava facendo il prelievo. Sarebbe buona norma avere sempre con noi il numero verde che ci dà la banca per segnalare disguidi di questo tipo, o comunque anche qualora ci accorgessimo di una frode e vogliamo bloccare la carta. Esiste sempre il numero verde e sarebbe bene, soprattutto quando andiamo in vacanza, portarlo con noi. Fabio Picciolini, torno di nuovo da lei. Noi abbiamo fatto una casistica, credo abbastanza ampia, delle questioni che si possono verificare appunto con il confronto con il bancomat. Abbiamo detto la carta che viene naturalmente digerita, mangiata, oppure quando ci sbagliamo il PIN. Altri casi da segnalare per i quali prestare attenzione, secondo il punto di vista delle associazioni dei consumatori? Ma allora, innanzitutto sull'ascoltatore precedente, mi sembra di aver capito che lui ha chiamato direttamente le due banche. Sì. In questi casi, anche per sicurezza, visto che era venerdì, appunto, ha fatto bingo, forse chiamare direttamente il numero verde, come diceva la dottoressa Camporeale, per sicurezza che non avvengano disguidi o frodi, non sarebbe stato male. No, sul discorso invece dell'utilizzo bisogna sempre stare attenti ai malfattori, diciamo chiaramente, perché ormai sono talmente tali e tanti mezzi, dalla telecamera da lontano alle piccole SIM messe sotto la tastiera e via dicendo, quindi bisogna essere sempre molto attenti nell'utilizzare il bancomat, come in ogni caso qualsiasi carta di debito o di credito che sia. Il punto è, se uno appunto usa questi mezzi, sta bene attento, può fare poi il reclamo presso la propria banca o presso l'emittente della carta di credito e successivamente all'ABF. Purtroppo, se questo non è ben gestito, come prevedono i contratti appunto di emissione del bancomat o delle carte di credito, il rischio è che la responsabilità ricada sul consumatore. Certo. Stesso. Allora, tra l'altro, poi ci sono anche dei casi ancora più preoccupanti, tipo il furto conclamato, la carta bancomat non la troviamo più e quindi siamo certi che ci sia stata rubata. Lì c'è poi anche naturalmente la necessità di andare a fare denuncia presso un organo di polizia. C'è un mio amico che addirittura se l'è lasciata mangiare dalla macchina presso le ferrovie, appunto, presso la quale appunto si possono fare i biglietti, e quindi anche in quel caso, se non mi ricordo male, questa persona che conosco ha fatto appunto una regolare denuncia. Ci fermiamo adesso per i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ritorniamo con voi. 800 24 00 24, c'è anche chi ci segnala: ma se il bancomat eroga denaro falso, ci mancherebbe, pure questa non l'abbiamo mai sentita, ma sentiamo se è un caso che può capitare. E ancora tanti altri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno dice: ma insomma, ma di che razza di banche state parlando? La mia mi ha restituito subito la tessera che mi aveva mangiato lo sportello. Ma ribadisco, questo è il caso classico che può capitare, ma se è la banca presso la quale intrattiene già il rapporto, in 448 il direttore si muove e restituisce appunto la carta ingoiata dallo sportello. Il caso dell'ascoltatrice che abbiamo presentato all'inizio è che quello che le è capitato era uno sportello diverso dalla sua banca, e questo naturalmente complica un po' tutto. Un altro ascoltatore ci racconta di una disavventura un po' più complessa che gli è capitata a Shanghai. Un ATM guasto, trattiene la mia carta, dopo due giorni la banca proprietaria dell'ATM me l'ha fatta trovare nella filiale più vicina al mio hotel. Ho presentato il passaporto, avevo tutto di nuovo in tasca. Don't panic, ci appunto suggerisce Massimiliano, che salutiamo, e tanti altri ancora. Qualcuno ha delle situazioni più complicate, e ripeto, molto spesso, Fabio Picciolini, dipende anche dall'interlocutore che abbiamo, né dall'esteticità mentale di questo. Ma è evidente, quello che è stato detto è che all'estero mi sembra molto positivo il comportamento, se è la propria banca è ovvio che è abbastanza più facile riuscire a riottenere la carta. Invece quello che a me interessava molto è quello che diceva lei prima sul discorso delle frodi o del furto. Ecco, in quel caso mi permetto solamente di dare un consiglio di un secondo: appena uno ha il dubbio, bloccare immediatamente la carta. Certo. Perché, perché le statistiche dicono che ad esempio il furto di identità viene scoperto dall'interessato dopo 4-5-6 mesi. Certo. Quindi quello è bene, bloccare immediatamente la carta. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho avuto un caso analogo a quello della signora all'inizio. In questo caso io mi sono distratto perché è arrivata una telefonata mentre stavo ritirando il denaro e dopo qualche secondo a me è sembrato molto poco, i soldi sono rientrati e quindi è successo un po' un pasticcio. Quindi insieme alla carta anche i soldi si è ripresa la macchina? Esattamente. Okay. Ora, il problema era che io mi sono posto il problema del fatto che esisteva una telecamera che oltretutto guarda la situazione e quindi sarebbe stato facilmente risolvibile il caso, bastava guardare la telecamera e sarebbe verificato chiaramente che questi soldi mi erano dovuti. Il cassiere che ho visto qualche ora, diciamo mezz'ora dopo, quando la banca ha riaperto, in quel momento era chiusa, mi diceva che comunque dovevano verificare i conteggi eccetera eccetera, in una situazione che mi sembrava molto, molto semplice. Certo. Passato qualche giorno invece mi hanno detto che i soldi non c'erano. Quando ho minacciato una querela, una denuncia, perché c'era l'evidente possibilità di verificare cosa era successo, perché il cassiere diceva che poteva anche essere stata una persona che li aveva ritirati, mentre io mi ero distratto un secondo, infatti mi ero spostato un attimo dal bancomat. Direi che in questo caso ho l'impressione che ci sia, i soldi poi sono stati restituiti, però ho dovuto minacciare la denuncia. Sai che cosa c'è, Marco? No, lei è stato molto tenace anche nella richiesta di avere la disponibilità della documentazione con la telecamera che attestasse quello che era successo. Io ritengo anche che qualche volta un po' di resistenza da parte del funzionario con il quale capita di parlare è anche corretto che ci sia, perché se tutti andassero con questa, magari, non lo so, lei è stato lì fino all'ultimo, ha lottato e le è stato dato ragione appunto della situazione. Magari un altro ci provava, e poi anche dall'atteggiamento del possibile furbone, no? Si vede come è maturata la vicenda. Magari uno torna indietro e quindi l'impiegato di banca dice: visto che ho fatto bene, perché lui non ha lottato tanto, non so come dire. È chiaro, lei era totalmente nella ragione e ha lottato fino in fondo. Magari, non lo so, il funzionario, non so se ha capito quello che le volevo dire. Sì. No, direi che il problema che pongo è questo: prima di tutto sono passate alcune settimane e a differenza di quello che succede a Shanghai, che in due giorni si risolve, e questo secondo me ha a che fare proprio con un carattere molto italico, per cui la burocrazia è una cosa che più ce n'è e più siamo contenti. L'ultima cosa a cui si pensa è che i cittadini hanno dei diritti e che vanno tutelati soprattutto da istituzioni che sono più grandi di noi e che sono in grado ovviamente di sopportare meglio certe problematiche. In ogni caso si tiene come ultima considerazione il cittadino. Ho l'impressione che questo sia l'atteggiamento, cioè non ci si preoccupa del fatto che il cittadino subisca dei problemi, che abbia dei problemi. Io vorrei dire questo, perché poi alla fine i soldi li ho presi, però ho dovuto veramente, come dice lei, lottare e mi sembra che vada bene, cioè ci sia anche un tentativo infatti, un po' di frode. No, vogliamo, anche perché sì, adesso questo speriamo di no. Io così, siccome sono sempre convinta della buona fede di tutti, ma come dico sempre, sono Alice nel Paese delle Meraviglie, ammettiamo appunto che lo sportello magari di casi come il suo ne affronti più di uno nel corso della giornata e tutti devono essere documentati al meglio e per tutti deve esserci anche un filo di sospetto nel tentativo di capire se si ha di fronte un furbone che ci prova a dire: guardate, ho fatto un tentativo di prelievo, non mi sono stati dati tutti soldi, perché anche questo capita, Marco. Detto questo, il suo caso invece è emblematico nel senso opposto. Dottoressa Camporeale, torno da lei. No, tra l'altro la questione della telecamera che dovrebbe testimoniare, no, effettivamente quello che succede allo sportello è vera, come suggeriva l'ascoltatore. Lui dice, insomma, c'è questo controllo che poteva tranquillamente, immediatamente documentare il fatto che io, perché mi sono distratto, mi è stato preso tutto. E quindi mi dovevano restituire tutto immediatamente. Sì, comincio un po' dal suggerimento però iniziale. È chiaro che magari ci succede se squilla il cellulare mentre stiamo prelevando, rispondiamo al cellulare, però questo è un comportamento che ci espone al rischio sia di non avere i soldi che abbiamo chiesto, sia in realtà di far percepire questa situazione da malfattori che sono nei paraggi. Ora, voglio tranquillizzare anche il pubblico che ci ascolta, in realtà la percentuale di ATM manomessi o di frodi è estremamente limitato se guardiamo la percentuale, no? Il volume complessivo di prelievi e di transazioni che effettuiamo con le carte. Però è chiaro che una prudenza da parte di ciascuno di noi è assolutamente necessaria, certo. Come ci ricordava anche prima Fabio Picciolini. No, allora stavo guardando intanto altri messaggi che ci arrivano. Lorella ci scrive: la terza volta di PIN sbagliato, la carta incastrata è stata tagliata a metà in Malesia. In Malesia le tranciano direttamente qualora appunto si inserisca un PIN sbagliato nel tentativo magari di fare il prelievo con una carta altrui. Thomas da Vicenza: a me è capitato denaro falso dal bancomat, nessuno se ne è presa la responsabilità e ho perso 50 euro. Picciolini, che mi dice su questo? Questo è un problema vero, questo è un problema che è anche difficilmente risolvibile, credo che anche l'ABI ci stia lavorando sopra, perché non ci può essere, ecco, quel famoso discorso del sospetto dell'ascoltatore precedente, l'addetto bancario, chi dice che è veramente uscito dalla banca o non è uscito da ATM, diciamo così. Certamente la banca a monte dovrebbe aver fatto dei controlli che appunto vengono inseriti nell'ATM, nello sportello elettronico, vengono inserite monete, banconote corrette. Quindi purtroppo però so, c'è credo anche a noi, qualche volta è capitato. Se mi permette ancora due rispostine volanti. La prima, sul discorso di tagliare la carta, anche se sono dalla parte dei consumatori, io sono d'accordo, perché se la carta è sbagliata e se la carta è usata male è giusto anche non farla più utilizzare. Si richiede il PIN e in 4, 5, 10 giorni massimo si ha la carta nuova. La cosa invece dell'ascoltatore precedente, una cosa che ci è capitata anche a noi, cioè se la banca si convince che i soldi vanno restituiti, non è nessun favore, cioè è un obbligo. Cioè, anche la signora, se non sbaglio, anche la signora di prima, quella che non ho ascoltato, ma sì, che sapeva sì, il sì. Caso, quella con cui abbiamo aperto. Sembra quasi che sia una gentile concessione della banca. Non è così. Se la banca si convince e restituisce, e deve restituire i soldi in sostanza, non è che fa una concessione per qualche motivo. Mm-hmm. Allora, questo non mi sembra molto corretto da parte dei dirigenti, dei direttori, cioè, anzi credo che non dire una cosa del genere sia una cosa ancora più carina. Lo so, prima devono fare un po', ovviamente un po' di trattativa ci sta sempre, come per tutte le cose, un po' non è compito nostro, devo essere tranquillo, devo essere sicuro, c'è la procedura eccetera, esatto. Però ecco, di fatto perdiamo sempre un po' tutti tempo, esatto. Io non ho tempo per sentire Gianna da Trieste, me ne scuso. Ha una PostePay clonata, ha fatto tutte le denunce del caso, a settembre ancora nessuno le ha detto nulla. Tra l'altro, Picciolini, 10 secondi, che tempi ci sono in genere per appunto verificare situazioni di questo tipo? Ma dipende da dove avviene il fatto. Se avviene in Italia sono relativamente brevi, se purtroppo avviene all'estero abbiamo situazioni anche di mesi e mesi di attesa, purtroppo. Questo è un problema enorme, particolarmente in alcuni paesi un po' decentrati. No, per esempio le Poste entro quanto rifondono qualora questa clonazione abbia fatto sì che a Gianna venisse trafugato del denaro? Con le Poste abbiamo parecchio contenzioso in corso, eccoci. Però diciamo che poi anche loro stanno cambiando linea, per cui finalmente anche loro rimborsano. E comunque c'è sempre l'abito bancario finanziario che fino ad oggi, devo dire, è stato su questo argomento molto a favore. Molto sensibile. Gianna ci scriva: se ha tempo, ci sono tanti ascoltatori che ci hanno scritto, gireremo queste domande magari ai diretti interessati. Io vi ringrazio per averci seguito, ci sentiamo con Salvadanaio domani, a tutti buona giornata.